Savonarola, il frate che sgomberò Firenze. Prose scelte, un programma prodotto da Davide e Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari in un'epoca in cui i presidenti americani avevano smesso di portare la parrucca e lette da me in un'epoca in cui sembra che i presidenti americani abbiano ricominciato a portare il parrucchino. D'altra parte, capelli e guai non manca mai. Serio, capitolo 17, baguette e cazzotti. Intanto la madre e la moglie di Piero dei Medici si erano messe ai fianchi del re e dei suoi consiglieri. Davano, promettevano, offerivano che se Piero tornasse, lui insieme con loro sarebbe stato signore della città. Con tali argomenti l'animo dei francesi si era piegato sempre più in favore dei Medici e i sindaci della Repubblica venivano con severo aspetto ricevuti dal re, che, circondato dai suoi generali, affacciava pretensioni sempre nuove e più esorbitanti. Diceva fra le altre cose d'essere venuto in città conquistata perché gli era entrato con la lancia sulla coscia. Tali discorsi non facevano altro che inasprire gli animi senza concludere nulla, e però si procedeva in lungo peggiorando sempre. Ma quando in presenza dei sindaci il re ebbe l'ardire di lasciarsi sfuggire qualche parola in favore di Piero dei Medici, il volto di quei repubblicani divenne assai severo e in poco tempo si vide mutato l'aspetto della città. La signoria tenne subito consiglio in palazzo, chiamò i principali cittadini e fece loro conoscere il pericolo che si correva e il bisogno che v'era di tenersi pronti al suono della campana per uscire armati a guidare il popolo, nel quale erano già penetrate queste voci, onde popolani e francesi cominciavano a guardarsi in cagnesco, correvano fra loro ingiuriose parole e qualche volta si veniva ai fatti. Una di queste risse fu per divenire un giorno tumulto gravissimo. Alcuni soldati francesi tenevano legati con la corda alcuni prigionieri italiani che avevano preso in Lunigiana e li menavano per la città a ciò accattassero per Dio tanto da pagare la taglia che avevano loro imposta, senza di che non li avrebbero liberati e minacciavano anche di ucciderli. Questo spettacolo barbaro dispiacque tanto ai fiorentini che alcuni giovani più arditi, tagliata la corda, lasciarono fuggire i prigionieri con sdegno grandissimo dei francesi che non poterono riprenderli. Onde si venne alle mani ed il popolo tenendo forte da un lato e dall'altro accorreva gente a ingrossare la zuppa. Gli svizzeri, immaginandosi per quel rumore che la persona del re fosse in pericolo, si diedero a correre verso il suo alloggiamento, ma trovarono resistenza in borgo ogni santi e volendo sforzarlo venne da tutte le finestre una tal pioggia di pietre che li fece retrocedere. Già da un'ora si menavano le mani quando i capitani del re e molti principali cittadini mandati dalla signoria vennero e sedarono il tumulto. Ma questa fu una gran lezione ai francesi, che allora abbassarono un poco il fiero orgoglio e s'avvidero che a conquistare Firenze non bastava entrarvi col gesso in mano e la lancia sulla coscia. Una città che al suono della campana diveniva un castello armato, asserragliava le strade, vomitava da tutte le finestre, sassi, proiettili d'ogni sorta e fuochi lavorati, era qualche cosa di misterioso e terribile anche per quella superba fanteria svizzera, la quale vedeva ora che un esercito chiuso fra quelle mura poteva assai facilmente essere distrutto e ne rimase perciò atterrita. La signoria colse allora il momento opportuno e con l'aiuto di molti ambasciatori forestieri riuscì finalmente a temperare un poco l'animo del re. Furono moderate le strane proposte, né di Piero né di città conquistata si fece più parola, si riuscì quasi a concludere i patti. Il re avrebbe il titolo di protettore della libertà fiorentina e gli potrebbe ritenere per 2 anni le fortezze, restituendole prima se prima finisse la guerra. Si consentiva ancora a dargli buona somma di danari. Ma quando si fu a determinarla cominciarono di nuovo i dissensi. Carlo VIII era pieno di tutte le promesse fattegli da Pietro dei Medici e dalle sue donne. Chiedeva perciò somme che la Repubblica non poteva in alcun modo pagare senza molto oppressare i cittadini. S'erano quindi di nuovo inaspriti gli animi e si andava di continuo dalla signoria al re e da questi a quella senza poter concludere nulla, perché Carlo VIII s'era ostinato nelle sue parole. E già il Capponi durava fatica a frenare il suo ardore ed impeto naturale. Il re fece leggere allora dal segretario il suo ultimatum, dicendo che non voleva retrocedere più oltre di quello. I sindaci dovettero ricusarlo di nuovo, al che egli, rivolgendosi loro tutto adirato, disse in tono minaccioso: «Noi suoneremo le nostre trombe!» Il Capponi parve divenuto di fuoco e, levato il foglio di mano al segretario, rispose lacerandolo sulla faccia del re quelle parole divenute immortali: «E noi suoneremo le nostre campane!» Le quali furono pronunziate in modo che fecero in poche ore concludere quell'accordo a cui non s'era potuto riuscire con le preghiere e l'andare e venire di tanti giorni. Il trattato adunque diceva che tra la Repubblica e il re sarebbe corsa buona e fedele amicizia, che i loro sudditi troverebbero vicendevole protezione, che il re avrebbe titolo di restauratore e protettore della libertà fiorentina, che gli si pagherebbero in 3 rate la somma di 120.000 fiorini, che le fortezze non sarebbero ritenute oltre 2 anni, restituendosi prima se prima finisse l'impresa di Napoli, che i pisani riceverebbero perdono appena tornassero alla obbedienza dei fiorentini. Fu del pari tolta la taglia sui medici, rimanendo la confisca sui beni del cardinal Giovanni e di Giuliano fino a che non avessero pagato i debiti di Piero, il quale rimaneva confinato a 200 miglia dal contado, i fratelli a 100. Rogati i capitoli del trattato vennero giurati in Duomo e la sera si illuminò di nuovo tutta la città, sebbene nel popolo non si vedesse più quella prima affezione per re. Ma pareva che cessata una difficoltà fosse per sorgerne subito un'altra. Quando tutto era concluso, ecco che il re non mostrava più alcuna volontà di partire. La città era piena di soldati francesi acquartierati nelle case e di soldati italiani nascosti per tutto. Le botteghe chiuse, i traffici sospesi, ogni cosa incerta e disordinata, e le querele continue fra paesani e forestieri facevano temere pericoli più gravi. La notte succedevano assai spesso rubamenti e ammazzamenti continui, cosa insolita in Firenze, e ad ogni piccolo rumore la città intera pareva sollevata. Queste cose seguivano tutti i giorni, e però gli onesti cittadini sollecitavano in ogni maniera la partenza del re, ma invano, perché egli, ricaduto nella sua inerzia, pareva quasi non volersi più muovere da Firenze, il che teneva gli animi tanto più sospesi in quanto che non si vedeva alcuna via per obbligarlo a decidersi. In questa occasione si ricorse di nuovo all'autorità del Savonarola, il quale altro non faceva allora che adoperarsi di continuo a tenere la città tranquilla, e con le parole di pace le aveva, in quei momenti di trambusto e pericolo, recato un utile non punto minore di quello che avesse fatto il Capponi col suo eroico ardimento. I discorsi del frate erano stati quei giorni sempre sul bene universale. Mettano i cittadini da parte gli odi e le ambizioni, vadano in palazzo con l'animo retto, col desiderio di cercare il ben comune e non il privato, con la volontà ferma di stabilire nella loro città l'unione e la concordia, allora saranno veramente accetti al Signore. Egli si indirizzava ad ogni ordine di cittadini e dimostrava a ciascuno in particolare come il suo vantaggio in questa e nell'altra vita stesse nel difendere nella libertà e nello stabilire l'unione e la concordia. Invitato allora di andare a re Carlo e cercare di persuaderlo a partire, egli accettò subito l'incarico e senza indugio si presentò al reale alloggiamento. Ivi gli ufficiali e i baroni volevano vietargli l'entrata perché temevano che la presenza del frate potesse impedire il saccheggio di quel ricchissimo palazzo sul quale già avevano fatto di segno. Ma ripensando poi alla quasi venerazione che il re aveva per lui, non vollero resistere alle sue istanze e lo lasciarono passare. Carlo, circondato dai suoi baroni, gli fece lietissima accoglienza ed il Savonarola usò brevi parole. «O cristianissimo principe, la tua dimora riesce di grave danno alla città e alla tua impresa. Tu perdi il tempo dimenticando il dovere che la provvidenza ti ha imposto con grave danno della tua salute spirituale e della gloria mondana». Ascolta adesso la voce del servo di Dio, prosegui oltre il tuo cammino senza indugio, non voler fare la rovina di questa città e promuovere contro di te lo sdegno del Signore. E così finalmente il giorno 28 di novembre a ore 22 il re si partiva insieme con l'esercito, lasciando di sé assai poca buona opinione nel popolo di Firenze. E fra le giuste cagioni di rammarico non fu ultima il vedere come quello splendido palazzo nel quale con tanta generosità e buona fede era stato alloggiato fosse mandato a sacco, e non per le mani solamente dei soldati e bassi ufficiali, ma per quelle ancora dei generali e baroni e per quelle del medesimo re che portò via gli oggetti più preziosi e rubò fra le altre un leocorno che il comines pensò valesse circa 7.000 ducati. Quel che facessero gli altri dopo un tale esempio si può facilmente immaginare, si impadronirono senza pudore, scrive lo stesso comines, di tutto quel che tentò la loro cupidigia. In questo modo andarono perdute le ricche e meravigliose collezioni dei medici, giacché il poco che i francesi non rubarono lasciarono in tale stato che bisognò venderlo. Non di meno era tale e tanta la gioia di vedersi finalmente liberi da quel pericoloso ingombro d'eserciti forestieri che ognuno pensò più ai danni ricevuti, ma invece nelle chiese rendevasi pubbliche grazie al Signore, nelle vie il popolo riprendeva la sua spensierata allegrezza ed in palazzo cominciavasi a pensare di provvedere agli stringenti bisogni dello Stato. L'aspetto della città si era in questo mezzo affatto mutato. I partigiani dei Medici sembravano come per incanto spariti. Il Partito Popolare si trovava solo a dominare ogni cosa e il Savonarola era quello che dirigeva le volontà di tutto il popolo. Lui, dicevano, profeta veridico delle cose avvenute. Lui solo essere stato capace a moderare l'animo del re nel suo entrare in Firenze. Lui solo averlo indotto a partire. E così da lui attendevano consiglio, aiuto e comando in ogni cosa che fosse perseguire. E quasi che gli uomini del vecchio stato volessero sparire per dar luogo ai nuovi, morivano in quei mesi alcuni di coloro che meglio avevano rappresentato la corte medicea. Angelo Poliziano era morto nel 24 settembre di questo anno con tanta infamia e pubblica vituperazione quanto uomo sostener potesse. Lo accusavano di mille vizi, di mille oscenità, ma la cagione vera di tutto quest'odio risiedeva piuttosto nell'essere fiero dei Medici, divenuto allora già esoso a tutti, e nel sentirsi vicina alla cacciata di lui e dei suoi. Né a temperare quelle passioni bastò il conoscere che le ultime parole dell'illustre poeta, del sommo erudito, erano state parole di pentimento. Egli aveva chiesto che il suo corpo vestito dell'abito domenicano fosse sepolto nella chiesa di San Marco, ove infatti le sue ceneri riposano accanto a quelle di Giovanni Pico della Mirandola, morto il giorno medesimo in cui Carlo VIII entrava in Firenze. Il Pico aveva anch'esso mostrato già da più tempo desiderio di vestire l'abito di San Marco, ma avendo esitato non poté adempiere il suo proposito perché venne sorpreso dalla morte nella giovane età d'anni 32 e morendo chiese al Savonarola che non lo lasciasse scendere nella tomba senza averlo prima vestito dell'abito. La fine di questi due illustri italiani faceva tornare alla memoria alle ultime ore e la confessione del Magnifico, e a molti pareva quasi che la società medicea volesse nello spengersi riconoscere i suoi peccati e chiederne assoluzione a quel popolo che aveva tanto oppressato e a quel frate che ne era come la persona viva e parlante. Singolare era certamente che tutti costoro si rivolgessero ora a quel convento di San Marco donde era partito il primo grido di libertà, la prima opposizione e la prima accusa contro la tirannide dei Medici.